da chi giravi per lo mondo. Na notte tu mi sei venuta in suono e a sto povero si era raccontato a storia da Madonna pittiruto. Madonna senza osti si venuta tu di lu paradiso assai lontano e con lo figlio tuo che via senzino ti si firmata sopra la gravina. Nu pasturi e giuncavi già passava e in da montagna via li piegureggi a te solo vicino l'hai voluto pure si di giù era sordo muto ci ha detto di portarmi in un messaggio canta sto luogo tu facessi sosta a gente nostra se meravigliata quando lo sordo muto ha parlato. Questo è miracolo divino, a gente in ginocchio ci ha brigata e da tia tutti facciano voto, oi Madonna di Rupitiruto. Subito è pulata, migliaia di pellegrini sono arrivati e sopra i monti tutti sono saliuti pregando la Madonna ad alta voce. Chi ne chiede una grazia e chi fa voto, io pure Madonna già ti la chiedo, aiuta accendi tutti i paesi e pure i figli tua senza stisi. Noi sempre in tu cori ti portamo, di tia Madonna mia non ni scordamo, picchi sia regini stu paesi, oi mamma mamma bella senza stisa. E noi sempre in tu cori ti portamo, di tia Madonna mia non ni scordamo, picchi sia regini stu paesi, oi mamma mamma bella senza stisa.